Terzo discorso. Discorso agli Ansar dopo la battaglia vittoriosa di Hunain. Disse che Allah lo benedica e la ben gloria. O Ansar, cosa sono queste voci che mi sono giunte all'orecchio riguardo a voi? Cos'è questo scontento che amareggia i vostri cuori? Non vi ho forse trovato che andavate alla deriva e Allah per mio mezzo vi ha guidato? Non eravate forse discordi e in perenne lite tra di voi e Allah vi ha unito per mezzo mio? A ogni domanda gli Ansar rispondevano: Allah e il suo apostolo sono generosi. Che cosa vi impedisce, o Ansar, di replicare all'apostolo di Allah? Gli risposero: cosa dovremmo replicare quando al Signore e all'apostolo di Lui appartengono ogni bene e ogni grazia? Disse: avreste dovuto rispondere la verità e io l'avrei confermata. Sei arrivato tra noi smentito e reietto e noi ti abbiamo accolto. Sei arrivato tra noi senza alcuna protezione e noi ti abbiamo protetto. Eri fuggiasco e ti abbiamo dato asilo. Eri povero e noi ti abbiamo reso agiato. Proprio voi, o Ansar, siete preoccupati delle cose di questo mondo, mentre io mi sono preoccupato di fare in modo che questa gente si senta ben disposta verso quella fede in cui voi già siete saldissimi? Non siete contenti, o Ansar, che questa gente se ne vada con greggi e cammelli, mentre voi ritornate alle vostre case in compagnia dell'Apostolo? Per colui nelle cui mani è la mia vita, se non ci fosse stata l'egira, avrei voluto essere uno degli Ansar. Se la gente scegliesse di attraversare una valle o di varcare un passo e gli Ansar scegliessero di attraversare un'altra valle o di varcare un altro passo, io passerei attraverso la valle o varcherei il passo scelto dagli Ansar. Gli Ansar sono l'indumento intimo a contatto di pelle, mentre la gente è l'indumento esterno. Dopo di me sarete costretti a subire terribili ondate di egoismo. Sopportate pazientemente fino a quando incontrerete Allah e il suo apostolo e quando sarà in Al-Haud. Allah sii misericordioso con gli Ansar, con i loro figli e con i figli dei figli loro. E mentre l'apostolo diceva queste parole, tutti gli Ansar piangevano e sulle barbe scendevano copiose le lacrime. O apostolo di Allah, essi dicevano, siamo contenti di quanto ci è stato assegnato. Nota: il discorso è stato fatto dopo la battaglia di Hunain, una località a sud della Mecca, dove si erano concentrate le tribù arabe per marciare sulla Mecca ai fini di restaurare la religione politeista abolita dal profeta, dopo la liberazione della Mecca dal potere idolatrico nell'anno 9 dell'Egira. Il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, aveva avuto un occhio di riguardo per i meccani, di fresca reversione all'Islam, nella divisione dell'enorme bottino allo scopo di accrescere il loro interesse all'Islam. Questo atteggiamento non era stato capito dagli Ansar, appellativo dei musulmani di origine medinese, e aveva generato del malumore nelle loro file. Al-Haud, letteralmente la vasca, è un luogo del paradiso.